dove dolce Zefire tospira, e per l'amata Oretta innamorato sussurrando sospira. Fra tazze coronate i nostri affetti sospireran di gioia. Oh, vedi come la pampinosa vite stringe i nodi d'amore io il mio marito, tal questa nel tuo cuore stringer amor d'indissolubil nodo. Qui Alcina nel ritrovo il mio cielo me le sa feste attiva, non vedi? Forse per poco te le rapide il dio di preda, pare che lo spirito nel mio destino preveda. Vinda pace al tuo cuore, prego ai martiri, e che l'anima in sua doglia allegra sospiri, pure a vostri